Incontri di Gianfranco Fabi. Buongiorno, buon pomeriggio ai nostri ascoltatori, buongiorno e buon pomeriggio a Corrado Sforza Foriani. Buongiorno. Cavaliere Sforza Foriani, presidente di Confedilizia, ha scelto La Gazza Ladra di Gioachino Rossini, questa musica impetuosa. Più per la musica o più per le parole ha scelto questa? Ma più per le parole e soprattutto per l'occasione, perché intanto noi piacentini siamo tutti melonimi proprio... L'abbiamo nel sangue. Ecco, da noi questo sostantivo significa lirica, perché la lirica è tutto per noi e non c'è piacentino che non sia amante della lirica. Ma poi perché è la musichetta che abbiamo messo nella musica di cortesia alla Confedilizia, dopo che avevamo avuto una specie di assalto di persone che ci avevano detto: abbiamo sfrattato la Confedilizia. In quel momento, perché ci avevano chiuso e rubato qualcosa di documenti, eccetera. I proprietari di immobili sfrattati. Esattamente, avevano proprio scritto così, avevano messo della cera nella serratura per non lasciare entrare, uscire comodamente, eccetera. E allora ho detto: usiamo La Gazza Ladra di Rossini, che così copriamo anche questo episodio degli occupanti abusivi fino alla Confedilizia. E quindi c'era anche un riferimento diretto in fondo con l'attualità, certo. in questa musica. E con la Confedilizia, l'associazione della proprietà edilizia, vuol darci un po' la carta d'identità di questa associazione? Ma guardi, noi riuniamo tanto gli investitori istituzionali come i piccoli proprietari di casa, cioè difendiamo a tutto campo la proprietà in tutte le sue espressioni, società, fondi patrimoniali, asset trust, e poi anche negli aspetti che attengono alla vita in casa, per esempio la Sindatcof per le domestiche e così via. In sostanza è il mondo della casa a 360 gradi, coperto interamente dal sistema Confedilizia. Naturalmente, di questi momenti, quello che ci impegna di più è la difesa della proprietà dall'attacco fiscale che ha avuto, che è stato un attacco veramente impressionante, sul presupposto che la ricchezza immobiliare sia una ricchezza statica, mentre ha una componente statica, che è quella del possesso, certo. Ma anche una componente dinamica, che è quella della disponibilità, del trasferimento, dell'ampliamento e quindi dei lavori edilizi. Quindi la Confedilizia difende un po' tutti, difende i grandi patrimoni, difende, certo, i piccoli, certo, proprietari. Sì, sì. Ecco, ogni tanto si sente dire: ma tassiamo i grandi patrimoni immobiliari. Ma ci sono in Italia, cioè sicuramente ci sono, ma sono veramente tanti i grandi patrimoni immobiliari. Ci sono i grandi patrimoni, e le dirò che nella commissione Ceriani sulla erosione fiscale è risultato che proprio certi grandi patrimoni hanno benefici all'anno per 500 milioni, quindi esattamente la metà dell'occorrenza per l'IVA. Quindi 500 milioni di benefici, quindi voi difendete anche questi benefici? Fiscale. No, questi veramente noi non li difendiamo, anche se ci sono dei soci, fondi immobiliari anche nella Confedilizia, ma che non hanno bisogno di queste agevolazioni così pesanti da poter aderire ugualmente alla Confedilizia, anche se si combatte questa discriminazione rispetto alla proprietà diffusa, che è una cosa che... Quindi tasse sì, ma siano giuste, siano un po' per tutti. Sì, siano giuste, e soprattutto, adesso passando al discorso più generale, che non siano solo a carico della proprietà, sul presupposto che invece debbano essere incrementate gli aiuti alle imprese e al lavoro, che è una cosa certamente giusta, ma che non deve andare a scapito della proprietà immobiliare, perché anch'essa, noi abbiamo anche le imprese edilizie al nostro fianco in questa battaglia, e incoraggiamo le nostre associazioni territoriali, che sono più di 200 in tutta Italia. Anche queste associazioni territoriali inquadrano le imprese edilizie, e quindi difendiamo l'edilizia, perché lo diceva già Nadò nell'Ottocento: quando va l'edilizia tutto va. In Italia bisognerebbe che andasse qualcosa, che ci fosse un po' di ripresa. Quali sono le sue sensazioni sul mercato attualmente? C'è stata una stasi, c'è stata una caduta dei prezzi negli ultimi anni, come vede in prospettiva? Ma devo dire che quest'ultimo provvedimento varato dal governo ed altri che sono in attesa, con il decreto Fare 2 che sostanzialmente entrerà in vigore ai primi di ottobre, un segnale di tendenza contraria c'è stato, quindi è mutato negli operatori immobiliari lo scoramento che c'era fino adesso. Adesso si guarda con maggiore speranza, perché c'è stato l'incremento dell'affitto, cioè l'aiuto per la cedolare, ci sono state le agevolazioni per le ristrutturazioni, c'è stata poi anche l'abolizione dell'IMU e la sua sostituzione con la service tax, di cui abbiamo ancora solo così delle linee generali, ma che significano andare verso un criterio civile, abbandonare il criterio che debba essere tassata solo la proprietà e magari anche oltre il reddito che produce, che è un principio costituzionale nostro, come della Germania, riaffermato più volte dalla Corte Costituzionale, e passare invece a quello che capita in tutti i paesi d'Europa, cioè che le tasse dei servizi, praticamente le tasse locali, che sono proprio date per l'esazione agli enti locali, in quanto sono loro che apprestano i servizi che maggiormente giovano alle case, sono tutte corrisposte sia dalla proprietà che da chi gode di questi servizi, anche occasionalmente, anche senza essere residenti, ma con una certa periodicità o comunque con una certa durata gode di questi servizi. Ecco, torneremo poi su a parlare appunto di case, di servizi, di tasse, però vorrei magari fare anche un passo indietro, avvocato Sforza Foriani. Come è diventato presidente di Confedilizia? Qual è il percorso di carriera? Ma guardi, io come anche altre cariche che ho avuto, non ne ho mai cercata una. Un determinato momento c'era da nominare un nuovo presidente, perché il presidente che mi ha preceduto, l'ingegner Viziano, che ha significato molto per la proprietà edilizia, era stanco, voleva dare le dimissioni, così come poi le diede, e io avevo allora sollevato una eccezione di incostituzionalità come avvocato, poi accolta dal giudice, che era andata a finire anche la Corte Costituzionale. E la Corte Costituzionale, pensi un po', aveva stabilito allora che di blocco degli sfratti non ce ne sarebbero più stati, perché ormai doveva ritenersi quello era allora sotto giudizio come l'ultimo anello per il passaggio dal regime di equo canone al regime libero, diciamo. E quindi sulla base di questa benemerenza e poi di qualche competenza che avevo dimostrato nel corso della vita precedente mia in Confedilizia, ero già vicepresidente da 2 anni, così gli amici mi hanno scelto per questa lunga presidenza. E poi riconfermato nel corso degli anni. Sì, sì. Devo dire che ho dato anche le dimissioni 2 volte, ma che insomma, o per un motivo o per l'altro, mi hanno così alla fine delle consultazioni dei saggi mi hanno chiesto di essere riconfermato, di accettare la riconferma. Quindi è dal 91 che lei è presidente. Dal 91, ecco, un'altra carica che ha mantenuto a lungo, che poi ha lasciato negli ultimi anni, è stata quella di presidente della Banca di Piacenza. Certo. Questo è precedente, perché è stato per 25 anni. Sono entrato come consigliere d'amministrazione nel 76, poi sono diventato presidente nell'86, succedendo all'avvocato Francesco Battaglia, che era stato praticamente il fondatore della banca, succedendo io alla sua morte. E devo dire che è stata un'esperienza importantissima, quando durante gli anni 90 e anche prima l'usanza era quella che ci si fondesse nelle grandi banche, eccetera. Io ho fatto così la figura un po' dell'ultimo venuto che non capiva i tempi e ho resistito a tutte le sollecitazioni di vario genere, e non tutte neanche così prospettabili, e ho conservato alla città di Piacenza questa indipendenza della banca fondata dai piacentini. E devo dire che sono contento oggi prima di tutto perché le banche locali ben gestite, solide come la nostra, hanno meno ma molto meno problemi delle banche grosse, e poi perché la gente apprezza questo servizio della banca locale e l'apprezza già essendovi ancora la banca locale, perché generalmente capita che la si apprezza la banca locale come la salute quando la si perde. Qua invece, grazie a Dio, siete riusciti a mantenere questa stabilità e anche questa vicinanza in fondo al territorio, alle imprese, e le nostre richieste di azioni continuano ad essere appunto richieste proprio perché sanno di metterli in mano a delle persone affidabili senza nessun scheletro negli armadi. Quindi ecco una presenza, questa della Banca di Piacenza, che continua ad essere una presenza locale, anche se poi si è un po' estesa la banca. Siamo presenti anche a Milano con due, ormai siamo su 5 regioni e diverse province, a Milano con 2 sportelli. Ecco, a Milano, Piacenza è l'ultima città della Lombardia o la prima città dell'Emilia? Ah, è l'ultima città della Lombardia. Andando verso sud, non certo, l'ultima in senso, certo. No, noi ovviamente. Noi siamo in Emilia per uno scherzo non da prete ma da papa. È stato Paolo III che, dovendo trovare un territorio nell'ambito dei domini della Chiesa per suo figlio Pierluigi, individuò questa posizione delle due province di Parma e Piacenza, che poi vennero confermate nel 64 dal Boncompagni come compartimenti puramente statistici, perché noi non abbiamo mai avuto con Parma e con l'Emilia storicamente alcun rapporto. I nostri rapporti sono sempre stati con Milano e con Genova. Genova addirittura era un sobborgo di Piacenza, quando avevamo le fiere dei mercanti, i banchieri nostri finanziavano il re di Spagna. Io stesso sono piacentino perché la mia famiglia discende da un fratello uterino di Francesco Sforza, che aveva mandato questo Corrado da Fogliano a difendere il ducato dalle sommosse che venivano contro certe imposte che aveva messo il duca Francesco. Gira e rigira, la storia è anche sempre soprattutto storia del fiscalismo. Ecco, in questo abbiamo scoperto un'altra caratteristica dell'avvocato Sforza Fogliani, che è la sua passione per gli studi storici. Sì. Guardi, stavo dicendo che quando si diceva nel Risorgimento vogliamo tornare alle antiche libertà, le antiche libertà erano quelle delle libertà del fiscalismo, che imponevano i nuovi padroni o nuovi sovrani che avevano così occupato la città, e le antiche libertà erano l'esonero da imposte, tasse gravose che si sperava che si ottenesse con il Risorgimento, e che in effetti dopo iniziali sacrifici la destra riuscì ad ottenere, concependo che il debito, non come adesso perché in Europa ci vuole o non ci vuole il debito in bilancino del farmacista, se lo superiamo o non lo superiamo, ma perché là, come sempre diceva il ministro Sella, si capiva che il debito pubblico sottraeva risorse al mercato privato e che per questo doveva essere annullato, non per questioni di euro non euro, ma per questioni proprio che sono tutte risorse sottratte alle iniziative private. A Ancora con le note della Gazza Ladra di Gioacchino Rossini riprendiamo il nostro incontro con l'avvocato Corrado Sforza Fogliani, presidente di Confedilizia, presidente d'onore della Banca di Piacenza, presidente del Comitato di Studi del Risorgimento, sbaglio? Provinciale di Piacenza. Provinciale, sì. Di Piacenza, quindi abbiamo parlato della prima parte anche molto di storia del Risorgimento, di storia, di una storia che in molti casi è influenzata dal problema tributario che provoca qualche rivolta popolare se non qualche rivoluzione. E abbiamo iniziato con la Gazza Ladra di Rossini. Ogni tanto il fisco è sempre un po' una Gazza Ladra che cerca di rubare qualcosa a chi ne ha un po' troppa. Un fisco, qual è il suo giudizio? Cioè, perché il fisco è un problema? Certamente perché le tasse sono tante, però sono anche confuse, complicate. È anche difficile pagarle, è anche difficile essere onesti in questo paese. Proprio così, si sono dimenticati i principi fondanti che aveva dettato ancora Smith, quindi parliamo di secoli fa, che le tasse dovevano essere le meno gravose possibili in relazione alle esigenze, ma soprattutto che dovevano essere facilmente pagabili. Facilmente. Invece siamo qui ad avere delle tasse esose, una ipertrofia dello Stato assurda, che è poi quello che porta a questo fiscalismo eccessivo che uccide ormai le aziende private, le piccoli esercizi commerciali, industriali, gli artigiani che stanno scomparendo e chiudendo i loro negozi, così come incide fortemente in un modo veramente smodato sulla proprietà e contrae ulteriormente la locazione che ormai non ha più redditività. L'ultimo provvedimento di cui parlavamo nella prima parte della trasmissione sulla cedolare secca è certamente un provvedimento favorevole più sotto il profilo psicologico che non sotto il profilo effettivo del risparmio fiscale, quindi un'inversione di tendenza che ha creato molte aspettative nell'ambito. Però in fondo in Italia l'80% delle famiglie sono proprietarie degli immobili in cui vivono, quindi vuol dire che in fondo anche la proprietà non è così sfavorita e anche Questa intanto è una bella cosa dal punto di vista sociale, che crea peraltro molti problemi, la difficoltà di mobilità delle forze del lavoro sul territorio, degli studenti, eccetera, eccetera. Comunque è certamente una cosa favorevole, ma è stata anche forzata, perché quando venne varato nel 78 l'equo canone, che rimane ancora nelle sue linee direttrici sull'uso diverso dell'abitativo, solo nel prossimo provvedimento del decreto Fare 2, speriamo che anche questa struttura venga corretta. Dicevo, l'equo canone praticamente fece sparire, come sempre quando si pretende di corrispondere, di fissare per legge dal Manzoni in poi, certo. Lo sappiamo tutti, quando si pretende di fissare per legge allora si diceva la meta e adesso il prezzo, fece sparire il bene dal mercato e tutti furono costretti per avere un tetto a comprare la casa, che come ripeto è una grande promozione sociale, ma che porta a degli inconvenienti, soprattutto se paragonato e contemporaneamente instaurato con una legislazione anacronistica molto vincolistica, per cui i contratti dell'uso diverso come minimo devono durare 12 anni e come minimo di altre categorie devono durare addirittura 18 anni, quindi una generazione. Una generazione. E questo è particolarmente pesante in questo momento, perché quando i commercianti, gli artigiani non sono in grado di corrispondere i canoni che pure si prospetterebbero come equi in un momento di normalità economica, non sono in grado di pagare questi canoni, il proprietario potrebbe anche scendere al di sotto dei canoni che si reputano appunto giusti in un momento normale, ma scenderebbe se avesse la possibilità di stipulare un contratto di 3, 4, 5 anni a titolo sperimentale. Tra 3, 4, 5 anni speriamo che la situazione sia modificata e ne faremo uno casomai più lungo, ma se oggi in una situazione come questa un proprietario deve fare uno sconto per cui non riesce neanche a pagare le tasse, ma deve uno sconto che poi lo vincola a un contratto che non verrà mai ritoccato se non per le poche per i pochi euro dell'Istat, della svalutazione dei prezzi, allora certamente non fa un contratto, certo, di così lunga durata, non si impegna per 12 o 18 anni. E questo vincola un po' il mercato anche immobiliare. Nessuno si vincola per 12 o 18 anni a un prezzo di favore. Certo. C'è un altro tema che Confedilizia ha affrontato negli ultimi tempi proprio sul fronte di novità legislative, che è quella del condominio, delle regole del condominio. Sì. Il Sole 24 ha dedicato molte pagine, Radio 24 ha dedicato molti programmi, sono regole che hanno cambiato molto anche la gestione delle stesse assemblee condominiali. Tra l'altro Confedilizia ha realizzato proprio un librettino all'assemblea con le regole in tasca. Ecco, non vogliamo in questa sede approfondire queste norme, però dà l'impressione di norme, diciamo, un po' troppe, che lasciano poco spazio anche all'autogestione, all'autonomia delle parti. Sono pienamente d'accordo. Io quando mi chiamano a parlare della riforma del condominio, l'ultima volta è successa, io mi sono preso quest'anno, perché l'attività parlamentare è proseguita piena anche durante il mese d'agosto, mi sono preso 4 giorni di vacanza a Cortina insieme alla mia famiglia, lì sanno, tra albergatori eccetera, sanno tutto di tutti, e quando appena arrivato mi ha telefonato il presidente della nostra associazione di Cortina, perché abbiamo associazioni, come dicevo, dappertutto. Senta, ma non ci farebbe una conferenza sul condominio? Ho dovuto fare anche questa conferenza, ma le conferenze sul condominio io le inizio tutte con un concetto. Negli Stati Uniti ci sono 57 milioni di statunitensi, di cittadini, che vivono praticamente in condomini, che sono però condomini regolati esclusivamente da accordi contrattuali, un po' come era da noi nel periodo liberale, cioè con il codice del 1865, dove il condominio era regolato da 3 articoli in tutto del codice, che sostanzialmente regolavano delle servitù reciproche fra i comproprietari, e in questo modo si viveva attraverso appunto delle regole contrattuali volontarie. Poi è stato calato dall'alto tutto questo, diciamo pure, scheletro di norme che questa legge avrebbe dovuto così liberalizzare, soprattutto attribuendo la capacità giuridica al condominio, così com'è nella gran parte d'Europa, ma insomma un po' il legislatore non ha avuto sufficiente coraggio, un po' qualche resistenza vi è stata da parte anche perfino di qualche associazione di amministratori spaventati dal dover cambiare così mentalità con la capacità giuridica, e di fatto si è persa la possibilità che si aveva di innovare profondamente la normativa, valorizzando il regolamento condominiale, quindi valorizzando la realtà condominiale e i voleri dei singoli condomini. Non si capisce perché debba essere la legge a stabilire nei più minuti particolari la vita condominiale, a cominciare dalla durata del periodo in cui sta in carica l'amministratore condominiale. Ma questo è un po' per la logica italiana, secondo cui tutto quello che non è esplicitamente permesso è vietato. Quindi la legge deve essere molto attenta a regolamentare ogni cosa. E questo porta poi a quella ipertrofia legislativa che ci opprime di fatto. Io con i ragazzi che ho in studio con me, che imparano a fare gli avvocati, gli dico di approfondire un problema, vengono a dirmi: ma guardi, c'è questa norma che lo impedisce, cercate ancora che ce ne sarà certamente un'altra. E molte volte è proprio così, perché l'ipertrofia è il nostro male, e d'altra parte risponde al principio, così, alla concezione che Einaudi aveva dei politici, quando parlava della superbia satanica dei politici che credono di poter regolare tutto e tutto quanto. Ecco, infatti, in questo senso però lei, da avvocato, forse un po' di questa situazione ha potuto anche goderne, cioè gli avvocati sono quelli che in questo mare di norme riescono comunque a navigare. Sì, più che altro vede, ci navigano coloro che così fanno la professione in un modo diverso da quello in cui io l'ho sempre fatta. Alla facoltà di legge i nostri tempi ci insegnavano che noi siamo dei collaboratori della giustizia. Io ho fatto il vicepretore perché allora i giudici onorari erano scelti dai dirigenti degli uffici, mi aveva detto faccia il vicepretore perché si impara a fare l'avvocato, ed è verissimo, quindi ho sempre fatto l'avvocato non per così per mescolare le carte e fare apparire rosso quello che è nero o viceversa, ma per rendere veramente un servizio al cliente che molte volte è perseguitato da una persona, da un'istituzione, da un ente, eccetera. E l'ho sempre fatto volentieri e faccio volentieri tuttora questa professione proprio per questo, perché c'è uno spirito missionario, come insegnava Calamandrei. Però naturalmente lo si può fare se ci sono gli strumenti. Molte volte noi dobbiamo sconsigliare a un cliente che ha ragione di fare la causa, perché cosa vuole? Ormai non si sa neanche più se si vive ancora e quando avrà termine. Comunque ci avviamo alla conclusione, anzi siamo alla conclusione. Da banchiere, da economista, da presidente di Confedilizia, da avvocato, se dovesse riassumere in una battuta il futuro del nostro paese, c'è comunque da avere speranza, perché di fronte a tante difficoltà riusciamo comunque a restare a galla. Certamente gli italiani hanno sempre avuto, o per fortuna, i francesi dicevano che noi siamo protetti appunto da questa, dallo stellone, o per fortuna o per le proprie capacità, la possibilità di redimersi e di ritrovare la via giusta. Quello che mi spaventa in questo momento è la mancanza di indignazione anche nelle cose, diciamo, più semplici ma tipiche. Il fatto che per mantenere le caldaie si debba comperare la legge recepita da un decreto ministeriale, il fatto che io abbia dovuto lottare davanti a una prima insensibilità da parte dei parlamentari stessi sul fatto che il nuovo catasto lasciasse la possibilità ai contribuenti di impugnare le rendite nel merito e non solo nella legittimità, impugnarsi nel merito, perché al contribuente interessa la congruità. Questo vuol dire trovare poco ascolto anche nella stampa, eccetera, su problemi essenziali come questi, diritto di difendersi, crea veramente sconforto. Grazie, ci sarebbero tante cose da dire sulla situazione, però ecco, la possibilità anche di un po' di essere sconfortati, di essere un po' disarmati di fronte a questa realtà, ma con la volontà comunque di proseguire, di andare avanti, di lottare anche contro queste cose. Grazie all'avvocato Cavaliere Corrado Forza Foriani di essere stato con noi questo pomeriggio. Ricordo presidente di Confedilizia, presidente d'onore della Banca di Piacenza. Ringrazio anche Pietro La Corte in regia e Luca Cremonesi in redazione. Vi ricordo che questo programma può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie e ancora buona domenica.